Solo il vento, solo quello, spazza via poi e confini. Questo silenzio è come sabbia nelle mani per me. Nessun segno, non un sogno, mi potrà tirare fuori. Né può più la pioggia rinverdire sui miei rami. Niente di questo inverno che aggrovia i miei colori. Non ti ho detto quanto sale ho bevuto dai tuoi mari. Sputato la roccia, tuoi pietrischi di dolori. Però è tutto scritto su un quaderno che si spoglierà un domani. Nel mio rimorso perso tra dubbi e scaffali. Che se tu me lo ritrovi strappa via quei buoi finali. Giorni di guerra, fredda il cielo tra di noi. E tutto ti sembrerà diverso nei pensieri. Per te il mio sole si tingerà di rosso in tutti i cieli. In te la mia neve si scioglierà per sempre dai tuoi prati. Finché il mio vento ritornerà a soffiare sui tuoi occhiali. A girare se quella sabbia si appena